Non essere assurdo, Franz. Lo sanno tutti che la città si estende illimitatamente in tutte le direzioni. Fossi in te, lascerei stare queste teorie assurde. La scienza ha il compito di consolidare le conoscenze acquisite, non di rincorrere folli astrazioni. Niente da fare, non hai minimamente afferrato il senso del mio discorso. Non so se mai ci riuscirò. Piacente, queste sono le milionesime Ovest. $37 al metro cubo? Prenda un espresso verso Ovest fino al 495esimo viale. A lei serve la 9.775.335esima Est. Vendi! E continui di lì verso sud, lo troverà fra il 568esimo viale. Hai visto i nuovi vagoni letto interurbani? Strada. C'è stato un crollo alla contea di Ken. $31 al metro, 50 isolati per 20 per 30 livelli. Di 3.000 livelli! Prenda un espresso livelli. Verso Ovest fino al 495esimo viale. Vendi! $31 al metro. Compra! La compagnia La Casa d'Argilla presenta Ballardiana, i cinque racconti Stella Vista, Billegno, Prima Bella Donna, Città di Concentramento, Terre d'Attesa, a cura di Lisa Ferlazzo Natoli con Simone Castano, Lorenzo Frediani, Tania Garriba, Silvio Impegnoso, Fortunato Leccese, Alice Palazzi, Roberta Zanardo, Concetti e Paesaggi Sonori Gianluca Ruggeri, Basso Elettrico Massimo Ceccarelli, Percussionologi Matteo Fracassi e Gianluca Ruggeri. Spettacoli, eventi culturali e segnalazioni della settimana. Con Alessandra Ferraro della compagnia Margine Operativo per presentare la 24esima edizione del festival Attraversamenti Multipli a Roma dal 15 al 29 giugno 2024. Ben trovata. Ciao, buongiorno. Raccontiamo cos'è. Percorso che è iniziato nel 2001, lungo, e chiaramente è un festival che ha avuto anche dei suoi cambiamenti, questo lungo percorso, e quest'anno, continuando un po' un arco progettuale che è iniziato nell'altra edizione, siamo al Parco dei Torri Fiscali, quindi abbiamo aperto un po' un ragionamento delle relazioni tra le arti performative del contemporaneo e gli spazi verdi della città, i parchi urbani pubblici. Continuiamo a relazionarci e a dialogare con gli spazi pubblici, questo è un elemento che insomma ha sempre contraddistinto, è stato uno dei pilastri del percorso del festival tutti questi anni, ma mentre prima eravamo nei paesaggi urbani, questa edizione ha iniziato un arco progettuale in realtà più lungo, ci spostiamo in un parco pubblico che tra l'altro è molto bello perché fa parte del parco archeologico della Piantica, per questo cuneo verde all'inizio della Tuscolana, anche molto facilmente raggiungibile, entro il quale ci sono due acquedotti, la torre medievale del Torre del Fiscale, quindi è uno spazio interessante anche perché è nato grazie a una rigenerazione avvenuta attraverso anche delle lotte dei comitati di quartiere di quella zona, perché è uno spazio abbandonato e negli ultimi anni è proprio rinato, e quindi come sempre con il pezzo andiamo un po' a toccare dei luoghi che parlano anche della trasformazione della città. Quest'anno Attraversamenti Multipli si presenta con un programma molto articolato e ricco, partiamo come dicevi te il 15 giugno e presentiamo 7 giorni di eventi artistici a Roma che sono 15, 16, 20, 21, 7, 28 e 29 giugno, diciamo in un arco di 3 settimane sono 7 giornate, e poi ci spostiamo per 2 giorni a Tokyo, questo è il Borgo Medievale di Roma, il 5 e 6 luglio, proponendo 2 giornate dedicate alle nuove generazioni di spettatori. Quanti sono gli eventi organizzati? Abbiamo 36 spettacoli performance size specific, quindi un numero bello consistente, presentati da 25 compagnie, di cui 5 compagnie internazionali. All'interno di questo programma presentiamo 6 prime nazionali e ci sono 5 formati performativi che sono stati creati in esclusiva per il festival. Questo è un altro elemento su cui continuiamo a lavorare, nel senso che stiamo ospitando alcune compagnie in residenza artistica sempre nei paesaggi urbani e naturali, anche per sostenere attraverso il festival la produzione di performance e di opere artistiche che si relazionano con gli spazi pubblici, con gli spazi urbani, e queste performance vengono presentate all'interno del festival. La prima giornata, per esempio, è il 15, l'altro elemento volevo sottolineare è la multidisciplinarietà del festival, che come sempre presentiamo spettacoli di teatro, di danza, di musica, con una grande attenzione agli spettacoli che lavorano sulle linee confine tra diversi codici artistici. E stavo dicendo del 15, 10 in quanto la prima giornata è già una giornata che racconta le traiettorie del pesce, costruimento a multidisciplinarità, in quanto alle 8 partiamo con Akira Yoshida, che è un danzatore coreografo spagnolo, che presenta per la prima volta a Roma Horyman, che è un spettacolo che combina la breakdance con l'acrobatica, la danza contemporanea, quindi questo stile ibrido qui. Insomma, il pesce ha dato molta attenzione. Poi noi abbiamo Alice, Davide e Sinigaglia che presentano un concerto fedito su quattro zampe, che è uno spettacolo che intreccia il teatro, la musica, la danza, un po' un manifesto generazionale. Viene proposto a questi due artisti che sono under 30, che ruota anche sul concetto dell'evoluzione, quella che loro definiscono la maledetta evoluzione. Poi alle 22 abbiamo un concerto performativo proposto da Vera di Lecce, Altar of Love, e dalle 7:30 è in azione il percorso sonoro proposto dalla Casa d'Argilla e creato per il festival, dislocato in vari punti del parco, tratto dagli uccelli, un testo di fantascienza che parla dell'ecofobia, del cambiamento climatico, questa natura animale fuori controllo. E sempre il 15, quindi presentiamo in tutto 6 performance, c'è Natural Landscape, una performance visual, un videomapping fatto dal collettivo Flexer in collaborazione con un maggio operativo e che va a creare un videomapping su tutte le arcate degli acquedotti. Vi ho raccontato il 15 perché un po' il festival si noda in questo modo: ogni giorno c'è un flusso di performance, solitamente iniziamo il primo giorno alle 8 e altre dalle 7:30, e c'è un flusso di performance con sempre un'attenzione su anche dei linguaggi artistici diversi. Un'altra traiettoria che vi volevo segnalare del festival, in quest'anno che abbiamo anche molto rafforzato rispetto all'altro anno, è tutto il ragionamento sulla sostenibilità. Ci interessa e ci sono anche importanti in un momento come il nostro di emergenza climatica, posto in quella che possiamo definire una dinamica di transizione anche verde e di creare e di sperimentare delle forme, delle pratiche più sostenibili sia di produzione ma anche di fruizione per quanto riguarda le arti performative contemporanee. Facciamo tutto un ragionamento all'interno del festival di disallestimento, quindi il festival abita il partito fiscale, non siamo parti, non siamo pedane, è una scelta, cioè tutto avviene negli spazi del parco. Chi ci è venuto lo sa che anche il pubblico c'è una dimensione molto libera, non chiudiamo le aree spettacolo, c'è una dimensione molto di attraversabilità anche degli spazi e anche di punti di vista multipli in cui si può collocare lo spettatore. E all'interno di questa traiettoria, come dicevo prima, stiamo ospitando delle residenze artistiche di 3 artisti, tra l'altro questa è anche in rete con una rete che si chiama Ecoritmi, fatta dalla Fondazione Roma Tre Palladio, etiche e margine operativo, che è supportata proprio da questo progetto dall'Unione Europea, che si intreccia attraverso i più ultimi di intrecci di intrecci. E queste 3 residenze artistiche, una è quella che sono state scelte attraverso l'open call nazionale, a cui c'è stata una risposta enorme da parte degli artisti, anche inaspettata, che racconta anche un'esigenza di avere delle modalità produttive diverse, delle possibilità di produzione anche. Stavo dicendo, queste 3 residenze, una è quella di Cosmo, da creare il cosmonauta di Nicola Galli, che è un artista che si occupa di ricerca corporea sul rapporto con la natura e in relazione sui paesaggi, e che presenterà Cosmorama il 20 giugno ed è un percorso di run nel parco, progetto quindi di danza veramente in relazione molto forte del paesaggio naturale. Poi abbiamo Ruth di Francesca Cora, che è un artista multidisciplinare che intreccia arte visive, tecnologia, movimento e una poetica, possiamo definire la transmediale, che presenterà il 27 giugno la performance. Tra l'altro il 27 giugno è una giornata dedicata alle nuove generazioni di spettatori anche per attraversamenti multipli a Roma, quindi non so, a Tokyo c'è una giornata dedicata a questa. E tra l'altro Francesca presenta anche un laboratorio di ecodanza e pratiche sportive per l'infanzia. E poi abbiamo il raccoglipietro di Enrico Malatesta il 28 giugno. Questi sono i 3 progetti, hanno un ragionamento molto forte sulla sostenibilità, ma non solo. Sempre il 20 giugno, per esempio, c'è Giselda Rignieri, anche lei danzatrice e coreografa, che presenta prima nazionale uno spettacolo vetro insieme a una musicista, dove la musica è live e viene generata attraverso gli impulsi sonori che sono generati dalle piante, quindi c'è una relazione con l'ecosistema che avvolge il parco etrofiscale. Quindi diciamo, queste sono un po' le traiettorie. Ci dai riferimenti web per sapere i dettagli del programma? Tutto sul sito, che è attraversamentimultipli.it, dove trovate tutte le presentazioni delle singole giornate, degli artisti, i luoghi, le modalità di ingresso. 24esima edizione del Festival Attraversamenti Multipli a Roma dal 15 al 29 giugno 2024. Un saluto e un ringraziamento ad Alessandra Ferraro della compagnia Margine Operativo. Alla prossima! Grazie, vi aspettiamo il 15. Ciao! Con Valerio Bindi, uno dei curatori del Festival Crack, Fumetti Dirompenti, a Roma, centro sociale occupato autogestito Forte Prenestino, dal 20 al 24 giugno 2024. Ben trovato. Saluto a tutti e tutte, quelli che ci ascoltano. Spieghiamo cos'è per chi non lo conoscesse. Crack innanzitutto è un happening, non è in nessun modo paragonabile a una fiera o a un mercato di fumetti, è una situazione che si viene a creare da quasi 20 anni, sono 19, da quando si chiama Crack, si viene a creare dentro il Forte Prenestino e prevede un scambio, una cooperazione che è fatta di corso, di vivere insieme, di condividere degli spazi e di condividere dei metodi di lavoro per produrre cose in autonomia. Ci teniamo molto a questa definizione, cioè l'autoproduzione piuttosto che il self-publishing o self qualunque altra cosa. Cioè la parte autonomous del nostro festival vuol dire anche mettere in condivisione, mettere in circolazione i saperi e condividerli con altri. Questa è la forma che riteniamo sia più giusta e più consona a promuovere, insomma, e questo festival lo fa appunto da tanti anni. Come si caratterizza questa 19esima edizione? Siamo quest'anno per la seconda volta di seguito a parlare di cose che apparentemente sono legate all'alimentazione. In realtà ci accorgiamo come questo non sia affatto così, cioè come in effetti l'alimentazione è un fatto culturale, è un fatto politico, è un fatto che si lega al controllo e alle forme di governo e addirittura alle forme di governo, come vediamo quello che sta accadendo oggi. Quindi non potevamo che declinare questo festival quest'anno anche in questa dimensione. Il tema che ci siamo dati è animale, anche penso influenzati da questa idea che esiste una specie di ascensore che ti fa essere un po' più o un po' meno umano. In questo ascensore possono entrare gli animali che salgono e vanno in uno spazio più degli umani o degli umani che scendono e vanno nello spazio degli animali, sostanzialmente creando una disparità di diritti tra i viventi e quindi la possibilità di sfruttamento, schiavitù, tutte cose che con l'alimentazione c'entrano poco. Quando si diceva che i palestinesi sono animali umani e possiamo privarli quindi di ogni decisione sulla vita e sulla morte, ma soprattutto anche di ogni diritto al lutto, perché è quello poi la grande disparità che divide gli umani dai non umani, no? Il diritto a piangere i propri figli. Ecco, beh, questa cosa ci ha fatto pensare che forse era questo la chiave entro cui dovevamo stare a lavorare. A questo proposito, infatti, c'è una mostra all'interno di Crack, che proprio si chiama Elevator, in cui alcuni autori e autrici o autoru hanno lavorato immaginando dei manifesti ipotetici per questo Crack. Quanti saranno ad esporre? Quante realtà? Abbiamo pubblicato questo listone l'altro giorno degli ospiti e sono circa 450 ospiti. Il procedimento di quest'anno è stato diverso di iscrizione, sono arrivate parecchie più domande e abbiamo annunciato fin dall'inizio che ogni domanda sarebbe stata presa in considerazione, ma che non avremmo potuto ospitare tutti. Il festival mira a proteggersi, a proteggere lo spazio in cui viene ospitato, che è il centro sociale Forte Prenestino, cioè, e a proteggere anche i vari espositori e le varie espositrici che hanno necessità di parlare col pubblico, di avere il tempo e lo spazio giusto. L'anno scorso abbiamo avuto un festival che preannunciava una crescita indefinita e quindi è stato deciso in qualche modo di provare a sperimentare un sistema di decrescita, quindi ridurre le iscrizioni, aumentare la consapevolezza degli iscritti. E questa cosa ha portato quindi, secondo me, a un livello di proposte molto più concentrato, molto più sicuro, a un'accettazione più consapevole anche delle regole di ingaggio, credo, cioè di come si viene a stare a Crack. Non è un mercatino dove porti tutto quello che hai fatto negli ultimi 5 anni, ma ti devi in qualche modo voler ritrovare. Ha portato anche a trasformare anche proprio il metodo di iscrizione, quindi un'iscrizione individuale, non collettiva, cioè i vari collettivi si sono iscritti singolarmente, proprio perché ogni persona conta, insomma, in qualche modo, e quindi questo numero era possibile calcolarlo, perché quello che siamo andati l'anno scorso di fronte è che avevamo 600 iscrizioni, in cui spesso erano due iscritti e quindi 1200 partecipanti, era una situazione non più in linea con il progetto, quindi continuare così avrebbe semplicemente fatto chiudere il progetto. Quindi abbiamo chiesto un cambio di passo, molti hanno capito, molti hanno dubitato, molti hanno le loro obiezioni giuste e sacrosante, però credo che in sostanza la maggioranza, il gruppo di sostegno sia rimasto, e soprattutto penso che questo ci permetta di avere un festival che offre un maggior spettro e una maggiore profondità di sguardo ai visitatori. Come si articoleranno queste giornate? Il meccanismo è sempre lo stesso, insomma, cioè il giovedì allestimento, il venerdì e il sabato poi sono i giorni invece in cui prende forma, e la domenica è un giorno più di chill out, di saluti, di progetti per il futuro. Dal punto di vista delle partecipazioni posso dirti che c'è persone per tutto il mondo, c'è come al solito una rappresentanza dalla Cina sempre nutrita, grandissima partecipazione dal Sud America e dai paesi ispanici, c'è una grande partecipazione francofona come sempre, e naturalmente un nutrito gruppo anche di italiani. Ci sono anche dei gruppi che hanno rinnovato proprio il loro modo di partecipare al festival, quindi hanno deciso di fare delle proposte riunendo, cioè questo tipo di modalità ha fatto sì che i gruppi, come dicevo, fossero in qualche modo più responsabili, quindi ci sono dei gruppi femministi che hanno proposto proprio delle occupazioni di parte del festival, sono gruppi che discuteranno di contenuti, di idee, di progetti, insomma diventerà secondo me questo festival forse meno uno spettacolo e più un processo, io spero, noi speriamo, e sicuramente però insomma è un'ipotesi su cui vale la pena lavorare anche per immaginare per. Dal punto di vista della musica abbiamo un giovedì più sperimentale, un venerdì un po' più elettronico, con partecipazioni, un punto centrale è l'arrivo a Roma di Asma, che è della Costa d'Avorio, una musicista a cui teniamo molto e che abbiamo spinto a organizzare questo tour, che non era mai venuta in Italia. E il sabato invece è una giornata più legata al live, avremo Eleonora Cotopo, e che è un'altra musicista con caratteristiche che ci interessano molto, e cioè avremo comunque gruppi che sono di Malclango, abbiamo Sweet Home, abbiamo Rota de Ferro, Tremac. È come al solito un programma variegato, cercheremo quest'anno di chiudere le celle un po' prima del solito, in modo da lasciare tempo e spazio anche a chi in genere sta sempre nei sotterranei e si perde tutta questa parte di festa, di partecipare di più a questo aspetto dei live e della parte diciamo più di festa, più di condivisione. Quindi aprirà il festival un po' prima, verso le 4 tutti i giorni, e la parte espositiva chiuderà un po' prima. Una partecipazione sempre importante che ci accompagna dalla fondazione in tutti questi 20 anni, in varie forme, ha preso tante forme diverse, è quella di Radio Onda Rossa, che anche quest'anno trasmetterà parte del suo palinsesto in diretta dalle piazze d'armi del forte, e che farà la tradizionale chiamata ai disegnatori per partecipare alle selezioni con le loro opere alle pagine di Scarceranda. Scarceranda è l'agenda contro il carcere, perché di carcere non si viva e non si muoia, e che da tanti anni collaboro a realizzare e che CRAC sostiene in maniera proprio sfegatata e totale, insomma, perché secondo noi è un progetto vitale e che permette di riflettere sempre che questi spazi di libertà che abbiamo e che curiamo sono anche collegati a molti spazi di assoluta mancanza di libertà, e dobbiamo prenderci cura anche di quelli, dobbiamo proteggerli, dobbiamo tenere gli occhi aperti su quello che succede anche. Tutti i riferimenti web per i dettagli del programma? Il punto di partenza è crack.coppedestino.net, che è la splash page di Crack. Poi seguendola con un complicatissimo, perché non ci piacciono le cose semplici, sistema di link a catena, si arriva all'edizione di quest'anno. Usiamo in maniera minimale i social, però insomma ci trovate anche sui principali social, però Crack è sostanzialmente un evento analogico, vecchio stile, dove le persone si confrontano, si incontrano e rimangono in contatto l'una con l'altra nella realtà. 19esima edizione del Festival Crack, fumetti dirompenti a Roma, centro sociale occupato autogestito Forte Prenestino, dal 20 al 24 giugno 2024. Un saluto e un ringraziamento ad uno dei curatori, Valerio Bindi. Un abbraccio e a presto. Un abbraccio, grazie. con Francesca Nodari, direttrice della 19ª edizione del Festival Filosofi Lungo l'Oglio, in 22 comuni dal 5 giugno al 24 luglio 2024. Ben trovata. Ben trovato a te Federico e a tutti i tuoi radioascoltatori. Raccontiamolo, cos'è? È una manifestazione che trova la sua specificità, la sua peculiarità nel fatto che dura circa 50 giorni, seguendo, se così si può dire, il tempo lento della provincia. Ad ogni incontro si cambia data e relatore o relatrice e anche luogo. E noi abbiamo scommesso da tanto tempo, e siamo convinti sia importante questo, sul binomio luogo pensiero. Quindi pare sì che gli spettatori che vengono ad ascoltare le lezioni dei maestri possano anche godere delle bellezze del patrimonio storico-artistico che attraversa tutto il nostro bel paese e che naturalmente attraversa anche questi luoghi. Com'è stata la scelta degli ospiti e delle ospiti? È una scelta molto, molto oculata, una scelta che va a più livelli, quindi parte da quelle che sono le specificità di ciascuno, gli interessi, gli studi, i libri pubblicati, e poi ci sono quegli ospiti irrinunciabili, quegli ospiti abitué che di anno in anno passano sempre nel festival. Tanti di loro sono anche membri del comitato scientifico o molto semplicemente sono dei consiglieri molto, molto preziosi proprio per organizzare al meglio e stilare al meglio il programma di edizione in edizione. Come noto, poi nel corso dell'ultima serata del festival viene anche reso noto quello che è il tema, la parola chiave dell'edizione successiva. Quindi, tra virgolette, sono già iniziate quelle che io scherzosamente chiamo le consultazioni. Quindi prima dell'incontro, dopo l'incontro con ciascuno dei relatori e delle relatrici, ci si confronta già sul tema della prossima edizione. E direi io a maggior ragione quest'anno, visto che l'anno prossimo il festival compie 20 anni. Quindi stiamo già lavorando a fondo sulla prossima edizione. Quanti sono gli appuntamenti di quest'anno? Gli appuntamenti di quest'anno sono 32, sono 27 lezioni magistrali, un convegno e poi una serie di passeggiate filosofiche condotte da esperti naturalisti, ornitologi, con al termine di ciascuna reading tenuti da figure quali Franco Arminio, il dietista Gian Giovanni Ghiselli, il filosofo e fondatore dell'Accademia del Silenzio e dell'Università dell'Autobiografia Duccio De Nezio. La scelta dei luoghi? Grazie molte per questa domanda, è una scelta altrettanto certosina. Non si scelgono mai luoghi a caso, non vogliamo e non voglio, come direttore scientifico, questa è una cosa a cui tengo molto, che siano dei non lieti per ricordare l'amatissimo e compianto Marco Gé, ma devono essere luoghi che in un certo senso parlino, che facciano da quinte a questi incontri e che diano magari anche la possibilità di visitare, di conoscerne la storia proprio in loco, magari prima, dopo l'incontro. Ecco, questo credo sia davvero un elemento molto molto importante anche per favorire quel turismo che sta emergendo molto culturale, naturalista, che si sta diffondendo e che ha delle esigenze, a mio avviso, molto intelligenti. Quindi non andare in un luogo qualsiasi, ma andare anche e soprattutto in luoghi che offrono un'offerta a 360 gradi. Il tema di quest'anno è desiderare, ce ne parli? È un tema bellissimo, ma è un tema estremamente ampio. Noi sappiamo che dagli antichi desiderare è una petizione, il desiderio è una petizione da Aristotele in poi, ma naturalmente nel corso degli incontri verranno affrontati i vari aspetti del desiderare. Ad esempio, che differenza passa tra il desiderare, il volere, il potere, e poi desideriamo tutti allo stesso modo, c'è un'uguaglianza nel desiderare. In teoria ci dovrebbe essere, tutti dovremmo desiderare con un punto di partenza che ci eguaglia, ma purtroppo non è così, c'è una diseguaglianza anche nel poter soddisfare i propri desideri. E poi la grande differenza, come sappiamo, un conto è desiderare un oggetto, un conto è desiderare chi, come diceva Levinas, non potrò mai ridurre a me, e che è appunto l'altro. C'è una, due espressioni, se posso, molto belle. Una di Levinas che dice il desiderio è prurito temporale, e dall'altro c'è un'espressione altrettanto bella, naturalmente andrebbe contestualizzata, ma il tempo ci manca, di Lacan, che dice che la cosa più grande del soggetto è quella di cedere sul proprio desiderio. A me pare, Federico, che oggi, e questa non è una bella notizia, bisogna lavorare molto, soprattutto le giovani generazioni facciano molta, molta fatica a pensare in grande, a desiderare sul serio, a vedere dinanzi a loro, io parlerò di desiderio e avvenire appunto, il futuro. È come se il futuro sfumasse e ributtasse all'indietro in una visione, come direbbe Bauman, retrotopica, sguardo continuamente verso il passato, sul passato, timido sul presente, molto pauroso sull'avvenire. Occorre riappropriarsi, e si sa che non è facile, della propria esistenza. E allora, ecco, il desiderio diventa un qualcosa, naturalmente, che passa attraverso l'eros, passa attraverso l'amore, ma passa anche attraverso il desiderare, ad esempio, in questa estate che non sta partendo, non è ancora partita, dal punto di vista meteorologico, dico, una bella giornata di sole. Anche quello è un desiderio che noi possiamo esprimere, ma dinanzi al quale siamo totalmente impotenti, così come c'è una gradazione del desiderio, no? Così come ci può essere una distinzione nel desiderare che cosa. Si può desiderare di imparare una nuova lingua, si può desiderare di imparare un nuovo sport, si può desiderare però appunto potersi nutrire e dissetare. Quelli sono dei desideri primari, quello è il bisogno. Ci sarebbe da fare la grandissima distinzione tra il bisogno che viene soddisfatto, ad esempio quando sete bevo un bicchiere di acqua, e invece quel desiderio che mi mette in un movimento inarrestabile, in una serie di fami, direbbe un filosofo, che mi portano ad attraversare un percorso che non termina, proprio perché il desiderio dell'altro è il desiderio di chi viene verso di me, ma che io non posso ridurre a me. Non a caso nel festival ci sarà anche un focus, diciamo prima, un convegno che abbiamo voluto fortemente chiamare Desiderio Malato, e quindi volto al contrasto della violenza di genere. Purtroppo sono tanti i casi di femminicidio a cui stiamo assistendo, di violenza sessuale. Spesso quando si guarda la notifica sul cellulare si è tristemente costretti a constatare l'ennesimo atto di violenza o addirittura di femminicidio. Ecco, io credo che chi fa cultura non possa stare a guardare, ma debba impegnarsi, e sia chiamato a farlo, nel sensibilizzare sempre di più i giovani e la società civile 360 gradi proprio sul fatto che ami una donna non è un oggetto, non la puoi possedere. Nemmeno puoi permetterti neanche lontanamente di toccarla. Ecco, e chi ama non uccide, chi ama non elimina. Purtroppo questo nel mondo e anche nel nostro paese accade, e il femminicidio è una piaga che deve essere contrastata. Tutti i riferimenti web per i dettagli del programma? Sul sito www.filosofilungolorio.it, per alcuni incontri è necessario prenotarsi. Sul sito e sui canali social Facebook e Instagram trovate tutti i riferimenti e anche i contatti telefonici per qualsiasi tipo di chiarimento. 19esima edizione del Festival Filosofi Lungo l'Oglio, dal titolo Desiderare, in 22 comuni dal 5 giugno al 24 luglio 2024. Un saluto e un ringraziamento alla direttrice Francesca Nodari. A presto! Un saluto, a presto, e vi aspettiamo numerosi. Grazie e buona giornata. È il momento dell'agenda per quanto riguarda gli appuntamenti della settimana relativi al teatro e agli eventi culturali con Simone Nebbia di Teatro e Critica. Ciao Simone. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Insomma, Roma si avvia alla sua chiusura d'anno con i festival di fine stagione, ormai da un po' di anni, insomma, fanno parte della coda stagionale. E cioè, cominciamo sempre dai nostri punti cardine, ovvero il Tordello Amore, che continua la sua stagione anche, diciamo, in una forma estiva, e propone questa settimana un paio di cosette interessanti, e vado a identificarle un po', insomma. Dunque, oggi stesso, stasera, insomma, avremo l'occasione di questo 8 marzo, una scrittura, una regia di Carlo Selmi, che appunto ragiona sulla giornata dell'8 marzo, una storia un po' particolare, cioè una donna nel giorno dell'8 marzo invita a casa i tre precedenti amori del marito per farsi raccontare la loro storia. Era originale, un po' come tipologia di offerta, insomma, di testo. Segnalo anche giovedì 20, dopodomani, Valerio Di Piramo scrive con la direzione di Fabio San Giorgi questo Le Tre Marie, sono tre sorelle non più giovani insieme, che vivono insieme con i loro rimpianti, la loro frustrazione, insomma è una storia che affonda poi nell'equilibrio familiare. Ecco, e poi allora insomma andiamo un po' capendo in giro che cosa ci offre il panorama. Allora, intanto lontano da Roma, però non troppo, poi in fondo continua Arte in Cammino, siamo in 8 comuni della Valle della Niene e del Giovenzano. In questa settimana, precisamente il 21 di giugno, andremo a vedere Translocal 01 Landscape, un quartetto di artisti della danza moderna ad Arsoli, Villa Morani è il luogo. Appunto il 21 giugno andremo a vedere questo appuntamento, poi seguiranno le settimane successive altri appuntamenti. Mentre invece per quanto riguarda sempre il 22 giugno, sempre per Arte in Cammino, a Roviano, nella pittà di Pattinaggio, la coreografia di Valeria Loprieno per la compagnia Atacama presenta questo lavoro, appunto sempre di danza contemporanea, Pablo, il peggior nemico della creatività è il buon senso. Questa è la dichiarazione che ha anche il titolo del lavoro. Dunque, poi procediamo ancora oltre, avvicinandoci un po' a Roma, andiamo al mattatoio, perché da giovedì 20 giugno inizia la rassegna Riverberi, che andrà avanti fino al 28 luglio tra il mattatoio lì al mattatoio di Roma alla Pelandra. Ci saranno mostre, performance, live set, insomma ti invito ad andare anche sul sito di riferimento per un programma più esteso. E è un evento appunto di Spazio Griot, quindi spaziogriot.org, cioè il programma più esteso, completo. Io segnalo un po' il calendario di questa settimana. Ci sono degli scontri, delle performance, un DJ set del 21 giugno, c'è un incontro con Gianna Chicotte e Enrico Tiano Summa, in conversazione con Candice Braids alla Pelanda, tutti gli artisti. Insomma, ci sono un po' di cosine in calendario. Vi invito a dare uno sguardo più ampio sul sito del mattatoio per questo Riverberi che prende il via appunto questa settimana, il 21 di giugno. Poi c'è molta danza in realtà, questa settimana al Teatro di Roma va in scena Buffalo, che è una realizzazione curata di Stefano, una quinta edizione proprio dedicata insomma al contemporaneo, al linguaggio della danza. E il 19, ossia domani, andremo a vedere questa azione per Buffalo che si chiama Mono ed è ideata da Silvia Rampelli per Abigail Doe, che invece sarà con Sandra Cristiani e Stefania Tansini in scena, ed è un'indagine sulla dimensione percettiva, sulla messa in tensione delle condizioni concrete dell'esperienza. E il divenire è assunto a esercizio per interrogare il rapporto con il reale. E questo è in Mono, saranno due gli orari, alle 19:22:30, insomma è piuttosto breve, di 25 minuti. Alle 19:30 infatti seguirà A Inter di Aurora Bauzà e Peugeot, prima italiana, un'opera che esplora il rapporto tra il corpo e la voce, scopre un'interazione nuova forma di interazione tra i due. E invece alle ore 20 ci sarà l'attacco del clone con la concert di Sonia Brunelli per Baroque the Great, e prende avvio da un'idea di sdoppiamento ispirata ai racconti di fantascienza, sempre appunto la danza come punto di partenza, qualcosa in questo caso la fantascienza, e dai giochi di simulazione in cui la distanza tra il reale e il futuro immaginato viene colmata. E alle 23 invece variazione numero 1 di Sorelle di Damiano, che vede insomma la messa in scena dei testi di Cristoforo Maria Lippi, che saranno consistati all'interno di un'offerta coreografica, e alle 21.30 Funkin' Pure di Vincent Ciampino, cui seguirà alle 22 già in situ con le direzioni di Angela Tabaglio e Michael Lorenz. Il 20 giugno seguiranno altre piccole performance con e poi entrarono i cinghiali di Lorenzo Benigni, seguirà alle 19.30 Voodoo di Lorenzo Balzocchi, che precisamente corrisponde a Masca Teatro, con Eleonora Violi in scena, e poi Certezza di Fase di Roberta Mosca di Cane di Coda, e versione numero 2 di progetto di Antonio Tagliavizzo, vecchia conoscenza, e Very High, sempre Angela Baggio, Michael Florenz, concludono questa due giorni di danza molto, molto intensa, anzi intensiva, è vero, quindi ci fa piacere poterne parlare. Allora, poi continuiamo anche con il programma di Fuori Programma, precisamente, che inizia questa settimana, e siamo al Parco Tor Tre Teste Alessandrino il 22 giugno dalle 19 alle 21 per questo lavoro di Bassam Abudiab, Beirut Physical Lab di B-Spaz, precisamente. C'è un percorso a piedi ed è un evento laboratoriale performativo, insomma, attorno al parco. E altro progetto in particolare sarà il 23 di giugno, sono tre repli di questo Veduta Roma, ideato da MK Michele Di Stefano, un altro progetto in cuffia che appunto cercherà di mettere insieme la visione e la traccia sonora nella dislocazione dei performer rispetto al luogo di cui si parlerà. Quindi, insomma, questo per quanto riguarda Fuori Programma. Io procederei ancora oltre, perché continua attraversamenti multipli, andrà avanti fino al 29 giugno, anzi in realtà proprio seguirà il 5 luglio a Toffi e Bruceri del Parco di Torre del Fiscale. E andiamo un po' a vedere il 20 giugno Cosmorama di Nicola Galli, ancora qui siamo sempre nell'ambito della danza, della performance, si occupa del rapporto tra uomo e natura. Sempre il 20 giugno Giselda Ranieri andrà a farci vedere la sua coreografia Vetro, che ruola intorno al concetto di farsi paesaggi in un contesto ecosistemico. C'è anche la creazione Gli Uccelli della compagnia alla Casa d'Argillo, un percorso sonoro creato all'interno del festival, disseminato all'interno del Parco Torre del Fiscale. Il 20 giugno andiamo a vedere Alvaro Murillo, una performance ai confini tra danza contemporanea e flamenco con 8 chilometri e Nul, e insomma vari altri appuntamenti che però saranno nella settimana successiva. Quindi per ora, con attraversamenti multipli, ci fermiamo qui. Ciao! Questa è tutta Scena Teatro su Radio Onda Rossa, il martedì alle ore 14. Trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.